Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, giovedì come sapete è il giorno dedicato in linea di massima all'approfondimento con gli amici e colleghi del Sole 24 Ore, di tematiche sportive che ben si attagliano per l'appunto a un approfondimento in chiave regolamentare, economico, finanziario, sociale. Do il bentornato dunque a Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio. Ciao Marco, tu hai preparato una scaletta di argomenti che ovviamente rispetteremo, ma che è stata giustamente, secondo me, attualizzata, perché la parola d'ordine di oggi è deferimento, e da lì partiremo per spiegare che cos'è un deferimento e per valutare quelli che il giudice sportivo, anzi il procuratore federale, ha disposto. Prima di tutto questo, è inevitabile, per dovere di cronaca anche oggi, notare che sembrava una finale annunciata in Coppa Italia, quella tra Inter e Juventus, che si profilava in base agli ostacoli rappresentati da Lazio e Sampdoria, con tutto rispetto, in semifinale. Invece, se la Juventus dovrà comunque sudare nella partita di ritorno per ribaltare l'1-2 sul campo della Lazio, l'Inter dovrà invece compiere un'impresa vera e propria dopo lo 0-3 di ieri sera a Marassi. Allora partiamo da qui e ascoltiamo i commenti dei tecnici e di alcuni protagonisti su queste due partite. Un passo indietro, e cominciamo dunque dal commento di Ranieri dopo il 2-1 laziale dell'altra sera. Io dico tutta la direzione della partita, mi è sembrato un pochettino severo con noi. Sulle ammonizioni mi è sembrato un po' cinese, con noi sempre giallo, per cui va bene così, dai. Avevo detto, non era giusto far disputare la Coppa Italia adesso aspettiamo 50 giorni per fare la gara di ritorno. Noi abbiamo un ciclo di ferro, per cui mi sembra un po' così scorretto. Comunque l'accettiamo, abbiamo perso e vedremo al ritorno. Non mi hanno dato fastidio, era una cosa personale. Quando lo rincontrerò, se mi ricorderò quello che gli devo dire, glielo dirò. Questo spetta alla mia società, io posso soltanto dire lo stile Inter. Vabbè, c'era anche poi una coda che più o meno si conosceva e di cui ci siamo dilettati ampiamente, sin troppo, nei giorni scorsi. Il commento invece di Mourinho alla sconfitta di ieri sera a Genova. Preoccupato, ovviamente preoccupato, una partita che aveva iniziato con facilità, con la partita controllata, un gol, una volta in più un gol ridicolo, dopo un gol di palla inattiva, dove noi lavoriamo, siamo organizzati, sappiamo quello che dobbiamo fare, e di nuovo un terzo gol che mi ha sembrato ridicolo. La squadra difensivamente sta regalando troppi avversari, e dopo ovviamente chi fa fatica a conseguire il risultato. Quando abbiamo in campo tutti i giocatori di più qualità, questo diventa possibile. Quando non ci sono tutti, quando abbiamo deciso di cambiare la squadra, perché è umanamente impossibile per questi ragazzi di giocare tutte le partite, tutte le competizioni, la squadra non ha la stessa qualità. La notizia migliore per l'Inter arriva dal fatto che stamane Balotelli si è regolarmente allenato con gli altri compagni reduci dalla partita di Genova. Sapete che Balotelli aveva sbattuto violentemente contro il palo nel secondo tempo della partita con la Sampdoria, era uscito in barella, era stato poi ricoverato e lo è stato per alcune ore all'ospedale San Martino di Genova per accertamenti. Poi è stato dimesso in nottata e già stamane, ripeto, si è regolarmente allenato con la squadra. È un'epoca di sorprese in Coppa un po' dappertutto, in Francia per esempio, vi ho detto di quelli italiani, in Francia ieri sera è uscito il Lione, che domina, come sapete, il campionato francese da tanti anni, battuto dal Lille 3-2, è uscito anche il Paris Saint-Germain, che quest'anno è forse la rivale principale del Lyon, e il Paris Saint-Germain è stato eliminato dal Rodez, una squadra di dilettanti che gioca in terza divisione francese ed è attualmente dodicesimo in classifica. In Spagna invece la finale della Coppa del Re di Spagna sarà tra l'Atletico Bilbao e il Barcellona, che si è vista brutta ieri a Mallorca, ma poi Messi a 9 minuti dalla fine ha salvato la situazione. Visto che siamo in un panorama internazionale, e poi passiamo all'argomento principale di oggi, Ashley Cole, cioè il terzino sinistro del Chelsea, è stato semplicemente arrestato stamane per ubriachezza molesta e comportamento aggressivo ai danni delle forze dell'ordine. Poi, dopo 3 ore di camere di sicurezza, ha pagato una multa di 90 euro soltanto ed è uscito. Tutto è accaduto poco dopo le 2 di mattina. E l'arresto è dovuto, leggo da un'agenzia, in seguito al rifiuto del giocatore di moderare il linguaggio quando è stato avvicinato dagli agenti. Quindi ubriachezza molesta e comportamento aggressivo ai danni delle forze dell'ordine. Ashley Cole è titolare del Chelsea, ha appena giocato l'altra sera in campionato e sarà in campo martedì prossimo a Torino contro la Juventus. Arriviamo all'argomento. Ah no, ce n'è ancora una, perché questa potrebbe essere un, visto che non è una grande giornata questa per gli interisti, questo potrebbe essere un piccolo motivo di speranza, perché ieri sera si è interrotta l'imbattibilità di Van der Sar. Durava da 1310 minuti. Il Manchester ha regolarmente vinto il suo recupero di campionato ed è arrivato all'11ª vittoria consecutiva, ma l'ha vinto in rimonta con i gol di Rooney e Berbatov, perché dopo pochi minuti di partita, Van der Sar era stato finalmente, c'è da dire, battuto dopo 1310 minuti e battuto anche in una maniera abbastanza rocambolesca, perché il gol subito non è merito degli avversari, ma è stata proprio una papera grossa sua, una respinta corta su un tiro innocuo con conseguente tap-in. Arriviamo a Marco Bellinazzo e agli argomenti di cui insomma, che poi strilleremo, ma con questa ampia pagina iniziale dedicata invece al deferimento. Sono stati deferiti da Palazzi, procuratore federale, nell'ordine Mourinho, Balotelli e De Rossi, con motivazioni differenti, per intemperanze verbali in due casi, e cioè Mourinho è stato deferito per aver detto: sta per arrivare la domenica del grande scandalo, le avversarie di Juve e Roma giochino con la primavera. Questa è la frase, non è l'unica, ma è la frase principale incriminata. De Rossi dovrà rispondere della frase di domenica: spero che Rizzoli sia solo scarso, certo se lui è uno dei migliori, quella di Collina è una banda. Balotelli invece per la linguaccia e i gesti in campo seguiti alla trasformazione del calcio di rigore del momentaneo 2-3, si legge nella motivazione. Marco, che cos'è un deferimento? È un atto con il quale semplicemente l'accusa, il procuratore appunto Palazzi, segnala alla federazione dei comportamenti che ledono il codice di giustizia sportiva, dopodiché appunto gli organi di giustizia sportiva, quello che è il tribunale, dovrà decidere se questi comportamenti meritano o meno la sanzione prevista, se possono essere applicate attenuanti o aggravanti a seconda delle situazioni. E tecnicamente consiste in un processo analogo a quelli che si svolgono nei tribunali, ma molto più rapido, perché in una settimana, appunto si dice la prossima settimana, la giustizia sportiva dovrà emettere le sue decisioni, proprio perché la giustizia sportiva è una giustizia sommaria, molto più veloce, se vogliamo, con meno garanzie rispetto a quella ordinaria, e meno male, perché altrimenti passerebbero cioè le anni per le eventuali avere squalifiche di oggi, poi verrebbero, no? Sì, giocate, verrebbero applicate quando i giocatori ormai non giocano più, applicate, insomma, ai nipoti, sì, tenendo conto purtroppo dei tempi lunghissimi della giustizia. I nipoti ordinaria di De Rossi, di Balotelli e di Mourinho, che cosa rischiano concretamente? Ma io direi sostanzialmente poco, perché al di là poi delle diverse fattispecie, per usare un linguaggio appunto tecnico, si potrà arrivare a sanzioni per i tesserati, cioè Mourinho e i calciatori, possono arrivare al massimo a 50.000 euro, e per gli stipendi che percepiscono non mi sembra una cifra molto afflittiva, e la stessa somma potranno essere costretti a doverla pagare anche le società, quindi l'Inter e la Roma. Il problema, se vuoi, non è tanto quella dell'entità della sanzione, che in determinati casi, qualora appunto vengano riconosciute le aggravanti, potrà comportare anche una squalifica per alcune giornate dei calciatori o dell'allenatore, anche se questa sembra un'ipotesi residuale. È più che altro un segnale che, a mio avviso, con un certo ritardo le istituzioni del calcio italiano dovranno dare sia ai tesserati sia ai tifosi, perché ricordiamo per esempio che a Balotelli viene contestata un'ipotesi che è collegata all'incitamento alla violenza. il gesto, se vogliamo, compiuto da un diciottenne, da un giocatore che era stato insultato in maniera molto grave, con appunto cori a sfondo razzista per tutto l'incontro, quindi una reazione in qualche modo può essere giustificata, in ogni caso potrebbe essere considerata, insomma, come un'ipotesi appunto di incitamento alla violenza, ma non credo che avessero bisogno dell'incitamento di Balotelli, di Scalmanati, insomma, ecco, tifosi romanisti. Ecco, qui entriamo un pochino nel merito di questi riferimenti, perché fin qui tu ci hai espresso ci hai raccontato come stanno le cose, cioè in base a che cosa si deferisce, quali sono i tempi, quali sono i modi, quali sono le sanzioni possibili. Ora, è ovvio che, cioè, mi pare abbastanza chiaro che De Rossi è andato oltre domenica sera, molto ma molto più oltre è andato Mourinho, anche perché a freddo e non a caldo e non in presenza di un torto vero o presunto appena subito in campo. Ma io personalmente Balotelli, proprio il deferimento di Balotelli, non lo riesco a capire, anche perché e qui ti rigiro la palla, no, non tanto per una valutazione, ma l'UEFA si è permessa di ricordare anche ieri che in presenza di cori razzisti esiste una sua precisa disposizione, lo ha ricordato ancora una volta Gaillard, e cioè il suo direttore della comunicazione. Crediamo che per stroncare questo fenomeno, ha ridetto per la milionesima volta Gaillard, ci vogliano misure drastiche. Fermare le partite, come noi più di una volta abbiamo raccomandato, è una di queste. È prevista anche una penalizzazione per la squadra in cui il pubblico si renda responsabile di certi comportamenti, con la sconfitta a tavolino per 3-0. Ora, i testimoni oculari, le testimonianze raccolte da San Siro domenica dicono che non era tutto il settore romanista impegnato in questi simpatici cori, in questi bu, insomma, nel solito repertorio ignobile riservato al giocatore nero che a loro di volta in volta non va. Però erano perfettamente udibili, erano riscontrabili. E allora, se vogliamo provare ad andare avanti su questo ragionamento e dar retta all'UEFA, siamo sicuri che oggi debba essere deferito Balotelli per aver reagito in maniera, secondo me, nemmeno scomposta a queste provocazioni razziali? O non andrebbe deferito Rizzoli, l'arbitro, che non ha sentito queste cose? E se non Rizzoli, che in quel momento è in trance agonistica esattamente come i giocatori, il famoso quarto uomo che è a bordo campo e non ha insomma mansioni poi così tanto più impegnative di un vigile urbano ad un crocicchio? Diciamo che i cori ci sono stati e venivano da un settore preciso, individuabile dello stadio, che poi non fossero tutti i tifosi romanisti a comportarsi in quel modo ci sta, e forse è un attenuante, insomma. Però appunto c'è la possibilità di bloccare, di sospendere le partite, se vuoi temporaneamente. Le società hanno l'obbligo di ricordare quelli che sono appunto gli obblighi di correttezza, di lealtà sportiva, e c'è una norma appunto del codice di giustizia sportiva, l'articolo 11, che prevede proprio un'ipotesi di responsabilità delle società per comportamenti discriminatori, e con sanzioni che anche qui sono di carattere economico, si arriva fino a 50.000 euro. Forse prevedere sanzioni più gravi e soprattutto sanzioni di carattere sportivo, come la penalizzazione in classifica o la sconfitta per 3-0 a tavolino, potrebbe garantire una migliore efficacia di queste misure, rappresentare un deterrente più forte. Sicuramente Balotelli ha un'attenuante oggettiva che gli potrà essere riconosciuta dai giudici sportivi. Non la hanno, per esempio, Mourinho, non la De Rossi. Perché appunto a freddo, con dichiarazioni, hanno leso il prestigio delle istituzioni federali. Se va difesa, va difesa. Ma per esempio, ora abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione le dichiarazioni di Ranieri, che si è lamentato ulteriormente per il calendario. Sì. Anche lì, adombrando una scorrettezza nella compilazione del calendario, e anche questa, se vogliamo applicare proprio alla lettera il regolamento, è un comportamento, sono dichiarazioni passibili di sanzioni, hanno una minore gravità. Ci si deve mettere d'accordo, o le dichiarazioni diciamo che adombrano una irregolarità, perché è previsto, si parlava di irregolarità nella gestione delle gare o del calendario, comportano sanzioni e quindi comportano una reazione da parte della federazione, oppure si lasciano correre tutte con i dovuti distinguo. Si è mossa la procura, come ho detto, in maniera forse troppo tardi. Per esempio mi viene in mente il comportamento di Chiellini sabato scorso dopo... Anche a me è venuto in mente, Marco. È ancora convinto che Cassano non debba andare in nazionale? Domanda Gianni da Siracusa. No, non sono mai stato così convinto. Certo, a essere sicuri che ogni volta si trova davanti Rivas nelle nazionali avversarie potrebbe essere un motivo in più per convocarlo. Ci stava dicendo Marco Bellinazzo. E allora Chiellini? Il comportamento di Chiellini, se lo paragoniamo a quello di Ballotelli, mi sembra oggettivamente più grave. Ballotelli molto più grave. Ha reagito, diciamo, in trance agonistica dopo aver segnato un rigore e dopo essere stato insultato. Per esempio Chiellini a fine gara, seppur poi si è scusato il giorno dopo, insomma, ma in quel momento, correndo verso la curva dei tifosi juventini, ha però trovato il tempo di... Dei tifosi juventini o napoletani? Credo che andasse verso la diciamo, curva dei tifosi juventini. A un certo punto ha visto anche che c'era un nutrito drappello di tifosi napoletani. Tra l'altro non quelli, sono quelli residenti al nord, perché come sappiamo, insomma, certo, c'era squalifica e l'impossibilità di fare le trasferte. Non erano di importazione. Poi ha trovato il tempo di, insomma, fare dei gesti, insomma, tipo non ce n'è per voi, qualcosa del genere, non so cosa volesse comunque dire. Atteggiamento provocatorio. In ogni caso, lo stesso che è stato imputato, ecco, a Ballotelli. Esattamente. Sono arrivate, io dico centinaia, ma potrei forse esagerare, di mail e di lettere in questi giorni. Ho estrapolato a proposito di Ballotelli e di questo deferimento una frase scritta da Leonardo, che scrive: il mio più grande sogno è che alla prossima occasione del genere Ballotelli, anziché mostrare la lingua, smetta di giocare, si sieda a gambe incrociate a centrocampo, e nel mio sogno verrà accompagnato in questo gesto anche dal suo compagno Santon, in maniera tale che questa nuova generazione di calciatori dia un segnale così forte da costringere finalmente tutti noi a prendere una posizione netta e attiva in merito al razzismo nel mondo del calcio. Io credo che sia esattamente lo stesso sogno che ha l'UEFA, che ha Gaillard, che ha Platini, che hanno tutte le persone ben nate, credo. E diciamo che se la federazione volesse essere severa, ha gli strumenti già per farlo la federazione italiana, perché nel codice di giustizia sportiva, in questo articolo 11 che citavo prima, è previsto, seppur nei casi di particolare gravità, la possibilità di decretare la sconfitta per la squadra i cui sostenitori, diciamo, siano appunto portati a compiere questi atteggiamenti. Esattamente, anche perché devono essere, sarebbe molto bello che fossero i giovani, per l'appunto, a contribuire a sradicare queste vecchie, ma non dico abitudini, perché la parola esatta non è abitudine, molto peggio, proprio dando loro un modello, un segnale, non nascondendoci che la strada è lunghissima, perché se ieri sera Balotelli esce dal campo semisvenuto, in barella, e viene fischiato anche in quel momento in maniera assordante dal civilissimo pubblico sampdoriano, che sta vincendo 3-0 tra l'altro, e che quindi dovrebbe essere nel momento della massima festa e del massimo giubilo, è uno degli infiniti esempi che si possono fare di come la civiltà sui nostri campi sia lontanissima. A questo proposito, e visto che sto evadendo un po' di posto, Stefano Fagionato poco fa ha mandato una lettera bellissima. Stamattina a Radio DJ il conduttore Linus ha definito ridicola la dinamica dell'infortunio di Balotelli. Io relata refero, perché non ho sentito nulla. Io ho trovato invece quasi commovente da parte di Balotelli l'averci provato senza minimamente preoccuparsi delle conseguenze. Proviamo a prendere il pallone e poi all'atterraggio penseremo in un secondo momento. Per me è stato un balzo incosciente, un salto meraviglioso. Più lo rivedo e più mi piace questo ragazzo e più tremo per lui. È possente e fragile come solo la chitarra di Jimi Hendrix. Beh, questo è un messaggio d'autore, Stefano. Complimenti davvero. A parte che condivido, perché c'è un pizzico di incoscienza in quel balzo di ieri sera di Balotelli che non valuta, che è inutile, perché tanto il pallone di Castellazzi, che è un portiere altissimo tra l'altro, e non valuta la vicinanza del palo. Però il fatto che ci provi non può essere certamente definito non mi pare possa essere definito una sciocchezza. E chissà se si arriva a questo Moratti quando dice ci sta ogni tanto prendere una sbattuta. No, perché sto leggendo un'altra agenzia appena arrivata. No, sono un po' arrabbiato, ma ci sta ogni tanto prendere una sbattuta, e si riferisce allo 0-3 e non a quella che per fortuna non ha avuto alcuna conseguenza per Balotelli. Va bene, chiudiamo il capitolo deferimenti e ne apriamo brevemente un altro, alcuni altri, il primo dei quali è la riapertura del processo al TAS per Manini e Possanzini, perché nel suo piccolo è un fatto epocale comunque. Sì, il TAS praticamente non aveva mai accettato di riaprire un caso una volta che si era arrivati alla decisione, proprio perché costituisce l'ultimo organo della giustizia sportiva internazionale. Sappiamo quanto le squalifiche di Manini e Possanzini hanno provocato nel calcio italiano e non solo, perché con la Federazione Internazionale, con la Lega, con l'Associazione dei Calciatori si è schierata anche la UEFA, anche la FIFA, chiedendo la riapertura di questo caso, giudicando effettivamente molto grave la squalifica di un anno per il mancato ritardo. Ricordiamo che appunto sempre che Mannini e Possanzini alla fine sono risultati negativi ai controlli, quindi non si sono dopati, hanno semplicemente mancato il controllo, ritardandolo, in questo sbagliando, quindi una squalifica ci sta, o un'ammenda, ma non di un anno, visto che il massimo di squalifica è 2 anni, per cui dovrebbe essere fissata a breve l'udienza, ed è peraltro molto importante perché gli avvocati dei due giocatori chiederanno anche che nel frattempo la squalifica sia sospesa, per cui per Napoli e Brescia potrebbe essere importante ritrovarsi subito, insomma, due giocatori in squadra e arruolabili immediatamente. Certo che sì. Io credo, scrive Massimo Caponi, che Balotelli sia stato deferito per i gesti rivolti ai giocatori della Roma e non per quelli rivolti ai tifosi, molto antisportivi, anzi razzisti, aggiungerei, perlomeno per una certa parte. Sì, però insomma, le attenuanti, cioè, che Balotelli non abbia bisogno poi di grandi provocazioni in campo per essere a sua volta un po' provocatore, questo basta vederlo, no? Mi pare. Ma se c'è una volta in cui le attenuanti c'erano, perché comunque il fatto di essere trattato in quella maniera da una parte del pubblico ti genera, ti suscita dentro qualcosa che poi ti porta probabilmente a trascendere anche verso altri. In ogni caso, io credo che ci sia un concetto di proporzioni. Cioè, vedersi sbattuto in prima pagina come un mostro, cioè nel concetto di mostro in prima pagina, per carità, Mourinho, De Rossi e Balotelli è una di quelle volte in cui uno dice dov'è l'errore, no Marco? Nel senso che Mourinho, De Rossi ci può stare, al di là della tutela, il diritto all'opinione, eccetera, eccetera. Ma Mourinho, De Rossi, Balotelli è dov'è l'errore in un caso come questo? Sono casi diversi, abbiamo cercato ora di differenziarli, perché. E immagino anche che gli organi di giustizia sportiva facciano altrettanto, insomma, la prossima settimana. Sicuramente nelle dichiarazioni di quei giocatori o di quegli allenatori che non tengono conto del rilievo che gli viene data, in quelle dichiarazioni in cui si adombrano irregolarità, favoritismi, c'è un rischio, e il rischio è di dare un alibi a quei facinorosi che non aspettano, certo, altro per andare la domenica o il sabato allo stadio e farsi riconoscere da tutta Italia, perché è un dato di fatto che il calcio resta una cassa mediatica inimitabile. Quindi c'è un diritto di opinione, c'è il diritto di esprimere le proprie, certo, considerazioni, ma c'è anche una responsabilità in quanto tesserati, e una responsabilità che fa bene la procura da questo punto di vista a far rispettare qualora sia violata. Certo, così come poi esiste, dovrebbe esistere anche il diritto al senso delle proporzioni, il dovere del senso delle proporzioni, del senso del limite, no? Mourinho lo ha ampiamente varcato, e su questo io credo che... Ho l'impressione, ma insomma, che Mourinho utilizzi molto le dichiarazioni, ma più che per offendere o per creare scandalo, forse per compattare un ambiente che ha notato essere in qualche modo in crisi in quest'ultimo periodo. Però deve rendersi conto che certe dichiarazioni fatte magari con l'intento di incentivare i propri giocatori o di farli ricompattare, sì, poi hanno un riflesso all'esterno, e il calcio italiano poi è molto molto sensibile. Sì, a parte che poi ci sono altre volte in cui, come ieri sera, invece sottolinea gli errori dei propri giocatori, dice adesso avrete capito perché giocano sempre gli stessi. Beh, insomma, poi quando di uno di questi che non sono sempre gli stessi hai bisogno, come ieri, si vede, no? Non so se questo risolva o aggravi. Certamente, a proposito di Balotelli, ero stato il primo lunedì, non sapendo dei colli razzisti e delle provocazioni precedenti, a stigmatizzare certi suoi atteggiamenti professionali nei confronti dei romanisti, perché non è certamente bello lucrare un rigore con una furbata, insisto, e poi cosa? Ma non sapevo di queste provocazioni precedenti. E d'altra parte. Se è vero che ha mancato di rispetto ad alcuni colleghi romanisti, perché poi questo dovrebbe essere, no, il modo di interpretare i rapporti in campo, è anche vero che poi non si può vedere fatta la morale da Totti sul piano comportamentale, perché il fatto che Corriere dello Sport ospiti in prima pagina ieri un intervento di Monsignor della Casa Francesco Totti, che insegna a Balotelli come si sta in campo e come ci si comporta, beh, insomma, il limite dovrebbe essere osservato da tutti, non soltanto da Mourinho e da altri. Ci sono ancora un paio di brevi capitoli prima di dare spazio ai vostri interventi, e uno che ripeto è stato lo stesso Marco Bellinazzo a segnalarmi, riguarda una buona notizia che arriva finalmente dagli stadi. Sì, è passata un po' inosservata questa celebrazione delle misure antiviolenza che ha fatto l'osservatorio, ricordando che domenica scorsa è stata la prima domenica negli ultimi 10 anni, da quando è stato fondato l'osservatorio, in cui non si siano verificati incidenti negli stadi. Beh. Quindi sembrerebbe, insomma, che le misure varate nel corso degli anni per frenare gli episodi di violenza stiano dando buoni risultati. Noi non abbiamo mai messo in discussione questo, piuttosto il fatto che, esagerando, si poteva e si sta creando un qualche disagio economico alle società. Domenica prossima e l'altra ci saranno altre 4 partite in Serie A, per esempio, che non avranno la possibilità di essere viste da tifosi delle squadre ospiti. Ciononostante, insomma, mi sembra un dato da segnalare, almeno ogni tanto, insomma, una buona notizia fa piacere. Che almeno da quel punto di vista funzioni, tutto quello che è stato fatto da un punto di vista regolamentare e anche legislativo, perché per altri aspetti, e ne parleremo proprio in uscita, per altri aspetti invece si può ancora discutere. È stata anche la settimana di una condanna ad un presidente che è Lotito della Lazio, e ad un altro episodio in chiaroscuro che è successo in Lega, dove un presidente inibito si è regolarmente presentato, mi pare, ma vorrei che ci fossi tu a raccontarci queste due vicende. Sì, sono ovviamente vicende molto diverse tra loro, molto diverse. Ma giusto per dare un'idea del costume dell'ambientino, comunque. Beh, no? Preziosi, partiamo da quella meno grave, se vogliamo. Sì, certo. Preziosi ha ricevuto nel corso degli anni una serie di deferimenti, ma è difficile anche stare dietro. E squalifiche vere e proprie. A deferimenti e squalifiche. Gli era stato inibito, per esempio, di presentarsi in Lega, di parlare nell'ambito degli organi associativi del calcio italiano. Pare che lo abbia fatto, pare, perché dobbiamo riconoscere una presunzione di innocenza. Evidentemente c'è stato qualche segnalazione agli organi federali, quindi anche lì è partita un'indagine per capire come mai Preziosi si trovasse lì e soprattutto cosa era andato a dire nell'ambito della Lega. Sappiamo che sono momenti importanti per il calcio italiano, ci sarà domani. Vabbè, ho capito, però torniamo al concetto iniziale. La prima domanda di oggi era stata: che cos'è un deferimento? Allora, un deferimento è una cosa seria o è una pagliacciata? Perché se uno è deferito e poi è anche squalificato, e stiamo parlando di un presidente, se poi si presenta nella casa dei presidenti, nella sede dei presidenti, e si presenta in veste ufficiale, beh, forse vuol dire allora che quelle sanzioni non servono, allora tanto varrebbe abolirle. Diciamo che esiste un principio nei tribunali italiani, che è quello della obbligatorietà dell'azione penale, per cui ogni fatto che viola una regola deve essere sanzionato. È una sciocchezza, è un aspetto marginale, però è una questione di principio, evidentemente. Evidentemente, ma in ambito, diciamo, dei tribunali ordinari, il pubblico ministero non può valutare quanto sia grave quella violazione. Se c'è stata una violazione, deve agire. Nell'ambito della giustizia sportiva si deve decidere, a mio avviso, ed è una decisione chiaramente politica, se vale lo stesso principio e quindi ogni violazione deve essere perseguita ed eventualmente sanzionata, certo, oppure se si continua ad andare, come dire, a vento a seconda della gravità del momento, della gravità delle considerazioni che stanno a monte o in altra sede, certo. A quel punto però si rischia di far perdere credibilità all'intero sistema. Lotito? La vicenda Lotito è più grave, ma è, diciamo, di carattere finanziario. Sostanzialmente c'è un obbligo nell'ambito della normativa sulle OPA, cioè l'offerta pubblica di acquisto, che se superi il 30% nella proprietà di una società devi acquistare tutte le azioni. Questo è per garantire ai piccoli azionisti la possibilità di vendere, quindi di guadagnare dalle azioni che posseggono. Lotito sostanzialmente si era messo d'accordo, questa è l'accusa che poi è stata confermata dal tribunale, con Mezzaroma, suo cognato, se non erro, sì. Per cui aveva acquistato un pacchetto di azioni per interposta persona, quindi formalmente non superava il 30% e non ha dovuto fare l'OPA, quindi spendere più soldi per mantenere il controllo della Lazio. Se è grave questa vicenda, anche se risale insomma qualche anno fa, però se il calcio italiano vuole fare un passo avanti verso la quotazione, anche se ormai non è periodo, però se questa della patrimonializzazione, della gestione della società in termini di impresa vuole essere una meta per il calcio italiano, è chiaro che questi comportamenti si spera insomma che siano, certo, siano relegati al passato. Non si potrebbe prevedere l'antidoping anche per gli allenatori, forse si eviterebbe di doverli poi deferire, scrive Marco da Pesaro, e forse servirebbero anche delle sorprese. Bagarini oggi sì come prima. Allora, nel congedarti, Marco, ti suggerirei già un argomento per il prossimo intervento, ed è una lettera alla Gazzetta dello Sport, in particolare a Franco Arturi, che è apparsa lo scorso mercoledì sulla Gazzetta, cioè 8 giorni fa. Ripeto, l'ho messa da parte e adesso tirò questo ritaglio. Sono andato a vedere, racconta Andrea Zoppi da Foligno, sono andato a vedere la mia Inter contro il Manchester con 3 amici, uno di loro non aveva biglietto, ma stiamo parlando di Inter-Manchester, non di una partitella, ma è voluto venire ugualmente sostenendo che lo avrebbe comprato dai Bagarini. Gli avevo ribattuto che avrebbe fatto un viaggio a vuoto perché con i biglietti nominativi non potevano esistere venditori abusivi. Con mio sommo stupore era pieno di Bagarini tutto intorno allo stadio, e questo lo testimonio anch'io perché la sede del Sole 24 Ore è vicina a Piazzale Lotto, e dalla prima mattinata di mercoledì scorso non c'erano altro che Bagarini fuori dalla stazione della metropolitana. Il mio amico ha comprato il biglietto che riportava il nome di un altro ed è regolarmente entrato allo stadio. Ora vi chiedo: A. Come mai i biglietti della partita erano finiti dopo 2 ore dall'inizio della vendita libera? B. Perché questi signori avevano in tasca una quantità industriale? C. A cosa serve il biglietto nominale se nessuno controlla? Franco Arturi gli rispose la settimana scorsa: mi piacerebbe che le rispondesse il mitico Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, o meglio ancora i politici che hanno varato leggi e regolamenti che nessuno pensa far applicare. Ti consegno questo ritaglio e compito a casa per uno dei prossimi nostri appuntamenti. Grazie Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Buon pomeriggio anche agli ascoltatori da tempo in lista d'attesa, per esempio a Claudio da Udine, buongiorno. Dica Claudio, buongiorno. Scusa per la voce, ma sono un attimino da fronte. Ci sto arrivando, volevo, grazie. Volevo utilizzare il discorso del De Rossi, no? Sì. Capisco benissimo che uno può arrabbiarsi per una giustizia, e lì va bene. Però venire a fare il piangina e dire che non potranno mai vincere lo scudetto perché lì è praticamente con loro, perché sono potuti dire che appunto proprio per colpa loro. Cioè, considerando anche le radio che ci sono a Roma, io vado a Roma spesso, sono del Friuli, ma vado a Roma spesso e sento le radio sia della Lazio che della Roma che sono qualcosa di, guarda, non dico niente, no, però... non dica niente, perché è già un periodo questo di discrete intemperanze verbali anche da parte di chi parla. Certo, se la mettiamo su quel piano è un conto, se la mettiamo su De Rossi io credo che lui abbia come sempre fatto male a esagerare, ad andare oltre, e cioè sul sistema. Se poi voglio parlare invece di una dichiarazione a caldo che ci può stare, e secondo me ci può stare a maggior ragione, perché diciamo che nelle ultime 3 uscite della Roma a San Siro, e cioè quest'ultima, quella in Coppa Italia di poco fa e quella dello scorso anno che vale lo scudetto, beh, dire che nel dubbio gli arbitri abbiano favorito la Roma non si può dire. Dire che nel dubbio siano stati così... no, una volta di qua, una volta di là, no, e quindi io credo che la rabbia di De Rossi e della Roma ci stesse tutta. poi dalla rabbia del momento a fare una doccia e a farsi passare come sempre queste scorie che non possono non esserci quasi ad ogni partita, da lì invece poi a teorizzare quello che De Rossi ha teorizzato, c'è una discreta differenza. Da Genova ha chiamato Gianni, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Premetto che sono interista da sempre, proprio da sempre. Però ieri sera sinceramente la squadra Doria ha fatto una grandissima bella partita, ha vinto 3-0, ma quello che veramente mi ha proprio deluso è il pubblico di una squadra che vince 3-0 e si mette a fischiare quel ragazzo che si è lasciato cadere in terra dopo una trambata su un palo impressionante. Trambata è meravigliosa. Guardi, mi no, è meravigliosa e ci si ride adesso, perché ieri sera non era affatto da ridere, ha ragione lei. Io sono sincero, a un certo punto ho pensato al peggio, perché purtroppo si è visto parecchie volte ragazzi giovani accasciarsi al suolo, magari perdere i sensi e poi avere problemi di cuore o cose varie. Certo. E sinceramente sono rimasto malissimo. E invece un'altra piccola cosa, una linguaccia in un atto così si può anche perdonare, penso. Allora saremo a vedere Del Piero ogni volta che segna un gol, che tira fuori quella spanna di lingua. Insomma. Ma io sono d'accordo, non andrebbero deferiti al Tribunale del Buon Gusto, però tutti, no? A cominciare da Del Piero, secondo me, perché non la trovo una cosa la società, non so come dire. Però poi ciascuno esulta come gli pare, cioè, lo sanno, c'è cioè, chi si leva la maglia, chi spacca le bandierine, chi calcia la lingua. Ne scopriremo che ci facevano i trenini già vent'anni fa. Credo che ne scopriremo delle altre. Certo, ieri ripeto, una tifoseria che è credo all'ottavo cielo, perché se un sampdoriano ieri prima partita ha detto stasera vinciamo 3-0, probabilmente è stato portato via con la camicia di forza. Invece hanno vinto 3-0 davvero, stavano vincendo 3-0. Questo ragazzo non era rimasto a terra dopo l'impatto con il palo, si era rialzato, ci aveva pure scherzato e riso su, e poi è caduto dopo, cioè è caduto col knockdown ritardato, che è quello più pericoloso. Che in quelle condizioni il pubblico, un pubblico, ieri sera era marasima, succedeva dovunque, un pubblico lo fischi quando esce dal campo in barella è qualcosa di che, se lo so, in questi giorni esagero un po' con gli aggettivi, ma rivoltante in questo caso è approssimato per difetto. Torniamo con il consueto ripasso della storia dello sport, la data di oggi, Nicola Filippone. Sembra ieri. 5 marzo 2000. Sulla pista norvegese di Kvitfjell, il 31enne Christian Gedina si aggiudica il penultimo Super G della stagione di Coppa del Mondo, precedendo gli austriaci Mayer e Schifferer. Per lo sciatore di Cortina d'Ampezzo si tratta del 12° successo in carriera in Coppa del Mondo, ma del primo ottenuto in una specialità che non sia la discesa libera. Inoltre Gedina riesce a interrompere il dominio dell'Austria nel Super G. L'ultimo successo in questa specialità da parte di uno sciatore non austriaco risaliva infatti al 29 gennaio del 97, oltre 3 anni prima, quando sul tracciato svizzero di Laax si impose il francese Luc Alphand. Per questi fischi, scrive Roberto Lalodi, dobbiamo ringraziare il nostro allenatore, sta facendo di tutto per fare in modo che l'Inter sia antipatica sempre e comunque. Roberto, sugli sforzi in questa direzione di Mourinho, io personalmente non ho mai avuto dubbi sul fatto che, non c'entra, che quando si vede un giocatore di qualsiasi squadra a terra in quella maniera, per quanto quel giocatore possa essere a buon o cattivo diritto antipatico, giudicato arrogante o qualsiasi cosa, accompagnarlo a fischiate fuori, il giocatore sviene, viene messo in barella e portato fuori, accompagnarlo fuori a fischiate e a insulti è qualcosa di, insisto, non è civile, ecco, tutto qua. Poi devo dire che il vento nei confronti di Mourinho, perché come sempre poi nel calcio non sono tanto le parole quanto i fatti a contare, da ieri a oggi insomma ha discretamente cambiato direzione, prendo una metra alle tante, Andrea Marani, ma Mourinho non potrebbe fare come fanno in tanti che se riceve un favore arbitrale glissa sull'argomento, è arrivato in Italia predicando il verbo eccetera eccetera. Vabbè, in sintesi, qual è il valore aggiunto ad un allenatore che è pagato diversi milioni l'anno se la sua squadra gioca male, non difende i propri giocatori e non riesce a cambiare nulla? No, non dimenticherei che Mourinho è tuttora in testa alla classifica con un congruo vantaggio, che ha ancora la possibilità di giocarsi sia il ritorno in Coppa Italia che soprattutto il ritorno a Manchester, ma è indubbio che nella maggioranza silenziosa dei tifosi interisti, che è molto, ripeto, è silenziosa, che è molto diversa dalla minoranza berciante dei tifosi interisti, le perplessità di Mourinho, le perplessità su Mourinho non sono di ieri sera, risalivano a prima. E quanto ai suoi comportamenti, le perplessità forti su Mourinho albergano anche in società e soprattutto nella figura del suo presidente, che avrebbe particolarmente gradito non doversi trovare al centro di questa gratuita bufera. Dunque, il primo era Paolo, in attesa da Siracusa. Buongiorno. Buongiorno, direttore. Direttore, due cose velocissime. Faccio parte della stragrande maggioranza silenziosa degli interisti, quindi su Mourinho, diciamo, volevo fare una riflessione, ma ha già detto tutto lei. Volevo fare invece io due riflessioni velocissime. Una è quella che, così come possa essere stato Mourinho offensivo nei confronti di altri partecipanti al campionato, così ho trovato offensivo che l'allenatore della Juventus abbia detto più volte che questo è lo stile Inter. Mi dovrebbe spiegare allora come mai lui è stato chiamato a rifondare il cosiddetto stile di Juventus. Questa è una riflessione da tifoso. Sì, molto da tifoso, Paolo, perché poi lei ha detto molte volte, lei ha detto che Ranieri ha detto molte volte, Ranieri ha detto una, cioè poi come sempre accade l'hanno rimandato in onda centinaia di volte, ma l'ha detto una volta. Per questo mi sono permesso di dire ciò. Sì. Per quanto riguarda invece il discorso, volevo richiamare il discorso di Inter Manchester dei biglietti. Io, abitando a Siracusa, per avere il piacere di vedere l'Inter 2-3 volte l'anno a San Siro, ho dovuto sottoscrivere 3 anni consecutivi l'abbonamento. E nonostante tutto non sono stato in grado di avere il biglietto di Inter Manchester perché era per soli residenti. Questo è tutto. Le ho letto quella lettera, grazie. Buongiorno a lei, grazie della testimonianza. Io credo che da questo punto di vista di sicuro questo paese non cambierà mai, perché ricordo che una delle prime inchieste che il mio direttore di allora, nel quotidiano in cui lavoravo allora, mi chiese di fare, e stiamo parlando di metà anni 70, era un'inchiesta sui bagarini e sul perché, soprattutto per le grandi partite, i biglietti finivano ai bagarini. Ho letto quella lettera inviata alla Gazzetta la scorsa settimana, so benissimo, ho visto i bagarini a frotte fuori dalle stazioni della metropolitana intorno allo stadio la settimana scorsa, e ho pensato che molto è cambiato nel mondo in questi 30-35 anni, ma questo no, da un certo punto di vista potrebbe essere rassicurante. Rolando, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, niente, io voglio uscire un pochettino dal coro. Intanto ho sentito prima che lei citava quella mail di quel ragazzo che diceva che Balotelli, nel momento in cui sentiva i cori razzisti, ha dovuto sedersi e poi assieme a Santon. Sono convinto che anche dalle sue colonne sarebbe stato tacciato del classico fenomeno che vuol fare... che non sta al suo posto, che esce ancora più dagli schemi. Quindi sinceramente tante belle parole, ma poi credo che questa condanna del razzismo l'ho sentita molto, molto più forte in altre situazioni e non tanto in una situazione che ha coinvolto Balotelli, che da canto suo è sicuramente un ragazzo che deve maturare e che deve crescere. Questo è oggettivo, cioè che Balotelli meriti un sacco di reprimende, di tirate di orecchio e magari anche di castighi, non c'è dubbio, e questo non l'ha mai nascosto nessuno. Mi sembrava che una volta accertate quelle provocazioni di quel genere, certi comportamenti dell'altra sera, non di altre volte, dell'altra sera, si potessero capire. L'altra cosa? No, l'altra cosa era sempre riferita al discorso Mourinho-De Rossi. Non sono d'accordo che le dichiarazioni sono entrambe delle dichiarazioni scorrette, sia quelle di Mourinho che quelle di De Rossi. Non trovo quelle di Mourinho più scorrette di quelle di De Rossi, proprio perché De Rossi continua pedissequamente, come è capitato anche l'anno scorso, a prendere la palla al balzo per dire che lo scudetto dell'Inter glielo regalano, gli aiutini eccetera. Dovrebbe guardare intanto agli aiutini che hanno dato la Roma, che comunque ci sono stati, come sono sempre avvenuti, e credo che anche in questa situazione, per un rigore che ci poteva essere, come ci poteva non essere, poteva non essere, va a dire che è tutto studiato, è tutto già deciso, è tutto, insomma, mi sembra molto molto, a proposito di fomentare certe cose, mi sembra molto molto azzardato questo. Sì, Rolando, però ripeto, Spalletti è una persona sportivissima, mi creda. Però ogni tanto c'è lo sfogo d'accumulo, no? L'ho chiamato così lunedì, non cambio idea. Credo che la Roma nei confronti dell'Inter nella partita doppia di questi ultimi anni a San Siro domenica sera avesse diritto ad un certo sfogo d'accumulo. Questo sfogo d'accumulo poteva essere quello di Spalletti. Tolto l'insulto ovviamente al quarto uomo che gli è costato anche una giornata. Non quello di De Rossi, perché la prima parte del discorso di De Rossi ci stava. Soprattutto, ripeto, perché a caldo, la seconda no. Fabrizio è chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, veramente dopo aver sentito tutte queste cose posso dire la mia. Diciamo che questo accumulo che dice lei può andare bene, però questo accumulo è molto ristretto negli ultimi 3, 4, 5, 6 mesi, dove c'erano insomma situazioni importanti. Gli aiutini che diceva il precedente che è intervenuto, potrà dire anche quali sono stati gli aiutini, che a me farebbe piacere saperli, perché seguendo la Roma, diciamo in modo un po' più meno radicoso e più da osservatore, negli ultimi 15-20 anni, ogni qualvolta che c'era una partita importante, diciamo che contava qualcosa della classifica o del risultato, con l'Inter, Roma, con Inter, Milan e Juventus, non è mai successo questo errore causale che ci può stare a favore della Roma. Allora io volevo chiedermi se queste cose le penso solo io, oppure se qualcuno, visto la vostra relazione... No, lei non è solo a pensarle, le pensa tutta Roma, anzi tutta mezza Roma, non nel senso della persona fisica di cui parlava prima Bellinazzo, ma nel senso della mezza abbondante. Roma giallorossa. Io credo che se esaminassimo i 20-30 anni probabilmente avrebbe in buona parte ragione lei, però penso che se esaminiamo i 20-30 anni non ne usciremo mai, e soprattutto se l'allarghiamo a 27 anni siamo quasi al gol di Turone. È vero che l'Italia non è cambiata nemmeno per i biglietti dei Bagarini, però vediamo di non esagerare, di non tornare sempre al punto di partenza. Sisto ha chiamato da Fermo, buongiorno, velocissimo e siamo in chiusura. Buongiorno, sempre dica. Riferito al caso Balotelli, sì. Mi veniva una domanda, come mai i tifosi della Roma, diciamo i bulli, hanno rivolti solamente contro di lui? Mi pare che nell'Inter giochino molti giocatori di colore, evidentemente qualcosa aveva già fatto prima. Ha detto, questa è una buona riflessione, Sisto, non c'è dubbio, ha promesso di essere sintetico, lo è stato, bravissimo. Certo, scrive Fabrizio, io sono un rugbista e tutto quello di cui state parlando mi sembra follia, è vero, è abbastanza vero. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, il giornale radio.